Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Esistono due cose che impediscono a una persona di realizzare i propri sogni: pensare che essi siano impossibili, oppure, grazie a un improvviso scarto della ruota del destino, vedere che si trasformano in qualcosa di possibile, quando meno ce lo si aspetta. In quel momento affiora la paura di un cammino ignoto, di una vita piena di sfide sconosciute, della possibilità che le cose a cui siamo abituati scompaiano per sempre. Le persone vogliono cambiare tutto e, nello stesso tempo, desiderano che ogni cosa continui ad essere come prima. Tratto da Il diavolo e la signorina prima di Paolo Coelho. Pensiamo a quello che da tempo vorremmo fare, ma un po' per pigrizia, un po' per mancanza di fiducia, per paura, timidezza, accantoniamo dicendo vorrei, ma non posso. Buongiorno da Nicoletta, oggi parliamo di sfide impossibili, o meglio delle sfide che noi riteniamo tali. Perdere qualche chilo, diventare una tanghiera, questo vorrei farlo io, perfezionare l'inglese, fare una maratona, imparare a nuotare, fare la gran fondo. Qui, cari amici, ho bisogno di voi. Ditemi che cosa pensavate impossibile e che invece siete poi riusciti a realizzare. 800 24 00 24, perché gli esempi positivi rincuorano, sono contagiosi e soprattutto possono offrire buoni spunti. Ma ho bisogno di chi sta dicendo vorrei, sì vorrei ma non posso. Insomma, dite la vostra sfida impossibile e noi, perché avremo tanti esperti, proveremo a vedere cosa vi manca per realizzarla. Il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24, ma posso aggiungere come sempre il nostro profilo Facebook e i messaggi al 349 238 6666. E una sfida voglio lanciarvela anch'io. Sentirete nel corso della trasmissione quattro indizi che vi aiuteranno a scoprire un personaggio che ha realizzato e superato una sfida impossibile. Il primo che lo scoprirà riceverà a casa, in collaborazione con la libreria Rizzoli, il libro che il nostro personaggio misterioso ha scritto per raccontare la sua avventura. E quindi andiamo a sentire il primo indizio. È partito dal suo paese in provincia di Bergamo e poi è andato sempre in direzione est. Questo è il primo indizio e intanto io saluto il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile della DDS di Settimo Milanese, grande amico della nostra trasmissione che è qui in studio con noi. Buongiorno dottor Confalonieri. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Dottore, lei sarà contento perché io nell'elenco delle sfide impossibili o che noi riteniamo tali ho messo molte sfide sportive, non a caso, perché lo sport insegna. Oggi noi sicuramente con lei parleremo e daremo consigli a chi vuole affrontare una maratona, chi vuole migliorare i tempi della corsa, chi vuole iniziare ad avere dei tempi sul nuoto, insomma di sfide sportive, ma cercheremo di utilizzare il metodo che viene consigliato a chi nello sport vuole raggiungere risultati come guida per affrontare le sfide che ogni giorno la vita si presenta, piccola e grandi che siano. Certo, perché spesso nello sport delle sfide che sembrano impossibili sono invece realizzabili se noi le approcciamo nel modo più corretto. E lo stesso può succedere nella vita. Cioè ci poniamo degli obiettivi di cambiamento, di miglioramento, di trasformazione che ci sembrano impossibili, a volte basta individuare il metodo corretto e le cose si possono realizzare. Allora cerchiamo di individuare il metodo corretto, c'è un paradigma, l'abbiamo messo queste parole chiave che poi analizzeremo e provate nell'ascoltarle a vedere come potete traslarle dallo sport, se volete appunto migliorare i vostri tempi sportivi, alla vita quotidiana. Andiamo a sentirle, poi le commentiamo. Organizzazione, determinazione, equilibrio, coraggio. Allora, dottor Confalonieri, per uno sportivo queste tappe che cosa significano con esempi concreti? Ma innanzitutto siamo partiti da organizzazione, proprio perché non possiamo porci una sfida se prima non riusciamo a integrarla con quello che è il nostro stile di vita, con quelle che sono le nostre abitudini. Quindi il primo aspetto fondamentale è capire come viviamo, quanto spazio abbiamo a disposizione, quanto spazio possiamo dedicare all'allenamento, e quindi poi costruiremo la nostra sfida e il nostro allenamento in base allo spazio che abbiamo a disposizione. Poi ovviamente determinazione. dobbiamo crederci sempre e comunque, dobbiamo essere persone toste, cioè persone che sono capaci di andare avanti al di là delle difficoltà. Equilibrio. Equilibrio è forse l'aspetto fondamentale, cioè dobbiamo essere in grado di gestire con attenzione, con intelligenza, con razionalità, sia i grandi successi, per esempio i grandi miglioramenti che abbiamo all'inizio non devono darci troppo entusiasmo, sia l'insuccesso, la difficoltà, l'infortunio, l'incidente, il problema, la mancanza di un risultato. E infine, but last but not least, direbbero gli anglosassoni, il coraggio, nel senso che poi è l'elemento fondamentale. Se noi nella nostra vita scegliamo di metterci in gioco, scegliamo una grande sfida, è chiaro che dobbiamo partire avendo del grande coraggio, perché è più comodo stare rintanati, non mettersi in gioco, che non provarci. Questo serve nello sport, per cui agli amici sportivi che ci stanno ascoltando, dottor Confalonieri, lei quali domande suggerisce? La sfida. Ma innanzitutto, avete realizzato il sogno che sembrava impossibile? Attraverso quali segreti e attraverso quale metodo? Oppure avete un sogno che vi sembra impossibile realizzare? Qual è la difficoltà che vi blocca? Noi siamo qua a vostra disposizione, da un lato per trasformare la vostra esperienza e metterla a disposizione di tutti, dall'altro per trovare una soluzione a chi sta lì e non tira fuori questo coraggio che magari è pronto per uscire. E qua in studio abbiamo anche il dottor Andrea Colombo, psicologo dello sport, ma anche, ricordo, finalista alle Olimpiadi di Sydney. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuto. Abbiamo detto che lo sport insegna, noi oggi stiamo raccogliendo dai nostri ascoltatori le sfide impossibili, quelle che sono riuscite a realizzare, quelle che invece hanno ancora accantonato e che cercheremo di affrontare in modo adeguato, ma dal punto di vista della psicologia dello sport, che è una disciplina che lavora molto sugli atleti, ma lavora anche sulle persone comuni. Certo, oltre a quello che ha detto il dottor Confalonieri, io vorrei aggiungere che sul piano psicologico ci sono due aspetti sui quali lavorare. Uno, l'aspetto mentale, cognitivo, ovvero sia perché pensiamo che una cosa sia impossibile, che significato ha per noi il fatto di riuscire a raggiungere questo determinato risultato. L'altra, naturalmente, la motivazione, che cosa ci spinge a raggiungere questo risultato, a raggiungere questo obiettivo, e di conseguenza poi organizzare la propria vita, essere determinati nella sconfitta come pure nei certo. successi, e soprattutto cercare di diventare se stessi, che poi alla fine è la cosa più importante. Perché nel nostro paradigma abbiamo usato organizzazione, determinazione, equilibrio e coraggio. Il difficile è lavorare su tutte queste quattro variabili, perché uno magari è organizzato ma non è determinato, poi arriva il coraggio ma salta l'equilibrio. Antonio, buongiorno a lei da Roma. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Antonio. Allora, eccomi qui. Niente, volevo dire, io ho 46 anni, a 39 anni sono entrato in una palestra di pugilato, quindi insomma, e ho cominciato ad allenarmi piano piano. Sì. Dopodiché ho fatto 4 anni di pugilato, ora sono un istruttore, ho perso 16 kg e sembrava impossibile alla mia età. E invece ce l'ha fatta. Che cos'è che le ha fatto scattare il click? Qual è stato l'aiuto più grande che ha avuto? Un grande istruttore. Un grande istruttore. C'è una persona che mi ha detto: metti un piedino davanti all'altro, visto che non corri da tanti anni, cammina. E poi piano piano mi ha portato a un livello di forma e di motivazione incredibile, perché mi ha posto in condizione, con tutte le visite mediche del caso ovviamente, no? Quindi seguito, eccetera, di riuscire a reggere allenamenti di un paio d'ore a volta per 4 volte a settimana. Antonio, io vorrei chiedere a lei questo, perché dato che noi stiamo dicendo, noi seguiamo il metodo che utilizzano gli sportivi per poi applicarlo nelle sfide di tutti i giorni. Spesso è riuscire nello sport, abituarsi, avere questa sorta di filosofia, aiuta anche nella vita. Da quando lei ha svoltato un po' col pugilato, gli ha dato soddisfazioni, lei ha trovato anche un miglioramento anche nelle sue relazioni in generale con amici, guardi, eccetera? Nell'approccio sicuramente sì. Sì, nel senso che io credo che veramente per me questa è stata una grandissima fortuna, anche alla mia età, insomma, io ho 46 anni, quindi sì, insomma, no, è giovane, vabbè, comunque è giovane. Allora, grazie. E quindi, no, vabbè, okay, sì, okay, no, vabbè, Antonio, mi mandi il suo messaggino e quindi? E quindi volevo dire, soprattutto quello che insegna lo sport in generale, la costanza, il metodo, la motivazione e in ogni caso la capacità di capire che bisogna essere attivi anche nella comunicazione. Salire sul ring, come ha fatto Antonio, dottor Colombo. Credo che sia molto interessante qui anche parlare di un altro aspetto, ovvero sia che anche nelle relazioni con gli altri noi abbiamo un nostro corpo, quindi attraverso lo sport riappropriarsi del proprio corpo, della propria corporeità, sia un modo per migliorare la propria autostima, per stare meglio con gli altri, per avere relazioni più efficaci, più di successo. Vorrei andare a Silvio da Roma per poi passare la parola al dottor Confalonieri. Silvio, buongiorno. Buongiorno. Ha vinto o vuole superare con noi una sfida impossibile o l'ha già risolta? No, ho vinto. Bravo! Sono riuscito a fare quello che volevo, è stato dura, però diciamo ho avuto fiducia in me stesso e quindi sono riuscito a fare. E poi ci sono anche altre sfide ancora da in ballo che voglio diciamo affrontare. Silvio, però sono soddisfatto perché la determinazione conta tantissimo, credere in se stessi anche in momenti diciamo molto difficili è molto importante questo. Silvio, qual è stata la sua sfida impossibile o quella che lei riteneva tale? Ma impossibile era riuscire, io sono un architetto, a progettare delle cose che mi piacevano e quindi poi sono arrivato a 40-45 anni così e vedevo che ancora insomma facevo piccoli lavori, invece poi ho avuto coraggio, mi sono capitate delle occasioni, le ho affrontate con coraggio, anche con l'insicurezza della non esperienza, no? Certo. Però sono riuscito diciamo a superare, quindi da quello poi sono partite altre cose, altre conoscenze e via, e da cosa nasce cosa. Silvio, noi abbiamo sentito il primo indizio, intanto dico ai miei ascoltatori che stanno scrivendo numerosissimi che non è Walter Bonatti, non è Moro, non è Papa Giovanni XXIII, ma di continuare ad ascoltare gli indizi. Anzi, Silvio, mi aiuti lei, dica lei via al secondo indizio. Guardi, non ho ascoltato diciamo bene. Il primo, lei mi deve dire solo via il secondo indizio, è una piccola via sfida. Il secondo indizio. Ok. Ha preso l'elefante, il cammello, navicargo, canoe e piroghe. Ha preso anche un risciò, una barca a vela e un'ape in cui stavano in 36 persone. L'aereo mai. Dottor Confalonieri, abbiamo sentito il secondo indizio, ma lei può aggiungere qualcosa per le nostre sfide. Sì, una sintesi delle due telefonate che sono state molto interessanti. Al di là di quello che diceva il dottor Colombo, che mi ritengo fondamentale, perché il rapporto con la propria corporeità dà fiducia ed è uno degli aspetti veramente più importanti, il pugile che ha chiamato per primo ha sottolineato un aspetto bellissimo, il rapporto con l'istruttore, il rapporto col leader, il rapporto con la guida, che comunque in queste sfide è spesso necessario. E la prima cosa che gli ha detto questa guida: fare un passettino, mi piace proprio anche questa definizione, dopo l'altro, cioè avere un obiettivo lontano, un obiettivo che richiede coraggio, però costruirlo step by step, passo dopo passo, è davvero fondamentale. E invece la seconda telefonata è stata estremamente interessante perché nella sua realizzazione di professionista il nostro ascoltatore ha sottolineato due aspetti che sono gli stessi che abbiamo sottolineato nella realizzazione dell'atleta: la determinazione e il coraggio. Ecco questo rapporto, questo parallelo fra due ambiti che spesso sembrano invece lontani. Allora, alcuni ascoltatori dalla regia, Carmelo, dobbiamo fare una cosa. Carmelo Lauricella è in regia alla parte tecnica e gli chiedo di rimandare le quattro parole su cui stiamo lavorando oggi. Ci lavoriamo, sono importanti per chi fa sport, ma sono importanti per tutti noi. Andiamo. Organizzazione, determinazione, equilibrio, coraggio. E voilà, io vado da Giuliana, da Cuneo. Buongiorno Giuliana. Buongiorno Nicoletta. Lei la sa fare la panna cotta? Oh sì. Sì, a me non sei. Questa è una sfida su cui ogni tanto mi misuro, a volte la supero, a volte no. A proposito. Perché mio papà era cuoco. Quindi, ecco, allora dobbiamo scriverci. Allora Giuliana, ci scriviamo via Facebook, che così. Volentieri, va bene. Volentieri. Okay. Senti, ti racconto velocemente la mia storia. Sì. 35 anni ho deciso di riprendere gli studi. Interrotti. Ho deciso perché era una cosa che mi mancava molto. Sì. E, ho fatto 2 anni da privatista, quindi studiavo di sera da sola e ho fatto gli esami da privatista. Poi dovevo fare il 5° anno alle superiori e vado a fare l'esame per accedere al 5° anno e la direttrice mi chiama e mi dice: guarda, da lunedì tu sei stata promossa, da lunedì però devi frequentare la scuola perché per vari motivi. Sì. E mi sono cascate le braccia perché non pensavo di mettermi proprio sui banchi. Ebbene, io lunedì mi sono presentata con i 18 anni, ho fatto il mio anno a scuola superiore. Brava, brava, sono fiera di te, Giuliana. Grazie. Dottor Colombo. Quando le cose per noi sono significative, siamo disposti a metterci profondamente in gioco. E quindi, come in questo caso ha fatto Giuliana, si è rimessa sui banchi con i 18 anni. È il classico, l'esempio: vorrei, mi piacerebbe, ma non posso, oppure ho provato ma non riesco. Manca quel dettaglio che fa la differenza, la determinazione. Giuliana, bravissima. Fiorella da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Fiorella, eccoci. Sì. Volevo rispondere al quesito che avete fatto, però credo sia sbagliato perché avevo pensato a Zanardi. Non è quello, ma Fiorella rimanga con noi. Okay. 800 24 00 24, Ciro ci chiama da Napoli. Buongiorno Ciro. Buongiorno Nicoletta, lei è sua ospite e radioascoltatore. Ascolti, io a proposito di sfide impossibili, l'anno scorso ho corso la Spartathlon, che è una corsa a piedi che parte da Atene e arriva a Sparta. Sono 246 chilometri. Sì. E io l'ho percorsa in 33 ore, tutte di fila. E quindi così. Però dico che nella scelta bisogna avere molta... Cioè, per fare questo tipo di gara qui bisogna avere una motivazione che va al di là. Poi bisogna curare molto i dettagli, bisogna pianificare gli allenamenti, tutta una serie di cose che poi permettono la riuscita di... Cioè ci vogliono, Ciro, quelle altre tre parole oltre alla determinazione, l'organizzazione, dottor Confalonieri, perché non ci si improvvisa, vero? Né nelle maratone né nelle passeggiate. Certo, un elemento importante che ci viene dalla testimonianza di Ciro è proprio questo, cioè è necessario pianificare gli allenamenti, è possibile anche fare qualcosa di straordinario come correre per 33 ore, per 235 chilometri, ma dobbiamo inserire l'allenamento nel nostro stile di vita e poi magari rispetto a sfide di questo tipo anche ascoltare qualche esperto che ci dica lo puoi fare, non lo puoi fare, lo puoi fare da un punto di vista medico, da un punto di vista ortopedico, se utilizzi questi accorgimenti, se fai queste valutazioni oppure se non le fai, perché poi non dobbiamo neanche correre il rischio che certe sfide diventino impossibili o addirittura controproducenti. Allora, Paolo di Genova mi scrive: il personaggio è Tiziano Terzani, sono in tribunale come teste, non posso chiamare, vale? No, varrebbe, ma non è Tiziano Terzani. Adesso noi andiamo a sentire i mercati e il meteo. Come sempre, come ogni giorno, io vi consiglio di andare a fare un saltino nel nostro Daily Lab, il laboratorio del benessere, dove i nostri esperti ci insegnano giorno dopo giorno, passetto dopo passetto, a prenderci cura della nostra salute. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, no, rido perché nel passaggio il dottor Colombo, che non a caso fa lo psicologo dello sport, mi ha detto: vai che vai benissimo. E beh, rincuora 800 24 00 24. È vero, dottor Colombo, noi abbiamo bisogno di qualcuno dal di fuori, quando soprattutto traballiamo un po', che ci dica: dai che ce la fai. Ognuno di noi ha una parte che ha paura e una parte che invece ha coraggio. E ascoltare la parte coraggiosa non è sempre semplice, bisogna imparare a valorizzare i piccoli passi, a valorizzare le nostre qualità. Questo è sicuramente uno dei modi per riuscire a raggiungere traguardi importanti e lei tra l'altro significativi. Ecco, e lei tra l'altro proprio guida questo, posso chiamarlo esperimento, questa esperienza, che partendo dalla corsa Sì, aiuta poi le persone a superare altre difficoltà. Sì, corri che ti passa è in realtà una metafora. Correre è sinonimo proprio di mettere un piede davanti all'altro per raggiungere un cambiamento. Il cambiamento non è soltanto il miglioramento dei tempi, il miglioramento della propria tecnica di corsa, ma è anche un cambiamento interiore. Molto spesso le persone decidono di avviarsi ad un'attività sportiva perché hanno il desiderio di cambiare qualche cosa di loro stessi. Quindi questo rende più significativo la motivazione, rende più significativo il nostro percorso, il nostro cammino di miglioramento. E a proposito di cammino, andiamo, Carmelo, al terzo indizio. Usando sempre lo stesso paio di scarpe, è passato per Italia, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lettonia, Lituania, Russia, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Cina, Xinjiang, Pakistan, India, Uttarakhand, Nepal, India, Bengala, Uttar Pradesh, Rajasthan, Kerala, Tamil Nadu, Singapore, Malesia, Thailandia, Laos, Cina, Corea del Sud, Panama, Colombia, Ecuador, Cile, Argentina, Uruguay, Brasile, Amazzonia, Pantanal, Perù, Bolivia, Brasile, Costa, Nord-Est, Marocco, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Spagna, Francia e Italia. Voilà, vi state avvicinando, 800 24 00 24, e spesso noi abbiamo difficoltà a superare, ad affrontare le sfide che ci propone la vita o quelle che vorremmo affrontare da soli, proprio perché ci autoeliminiamo, ci lasciamo abbattere dalle difficoltà, dagli insuccessi. Così torniamo a dire vorrei ma non posso, oppure ho provato, sì, ho provato, ma non riesco. Alla base di questi atteggiamenti disfattisti c'è la mancanza di resilienza, una parola su cui abbiamo lavorato più volte. Ma che cos'è? La resilienza è la capacità di persistere nel perseguire gli obiettivi di sfida, fronteggiando le difficoltà e gli eventi negativi che si incontrano. Il resiliente è un ottimista. Ritiene di saper controllare la propria vita, vede i cambiamenti come una sfida e non come una sfiga. Da Resist dunque sono, buongiorno al professor Pietro Trabucchi, psicologo dello sport e professore all'Università di Verona in psicologia dello sport. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei Nicoletta. Ciao Franco, ogni tanto ci risentiamo. Vede che io faccio da ponte. Ciao Pietro, ciao. Allora, a me è piaciuto molto. Vedi i cambiamenti come una sfida e non come una sfiga. Partiamo da qua. Sì, beh, sono... Forse ho usato un po' troppo, diciamo, il linguaggio non è proprio un linguaggio accademico, però il significato, quello che volevo dire, che poi... mi sembra che l'abbia detto il dottor Colombo all'inizio, cioè spesso le sfide non vengono realizzate perché ci sembrano impossibili, no? Allora questo sembrare impossibili spesso ha un significato di tipo cognitivo, cioè è vero che esistono delle cose che noi esseri umani non possiamo fare, però molte volte siamo noi che le riteniamo, le crediamo tali, non sulla base di una prova, di un tentativo di averle realizzate, ma semplicemente perché ci fa comodo tirarci indietro, perché non abbiamo abbastanza coraggio o perché qualcuno ce lo fa credere, no? Mi pare che si possa dire che la storia di tanti record sportivi sia proprio come dire impostata con questo cammino, cioè il fatto che magari certi record non venivano uguagliati perché effettivamente le persone non erano convinte fino in fondo che sarebbe stato possibile realizzare questa impresa. Poi nel momento in cui qualcuno l'ha realizzata per primo, quindi questa credenza è crollata, faccio l'esempio di, per esempio, la prima ascensione senza ossigeno dell'Everest di Messner, oppure il record sul miglio di Roger Bannister. Questo ha liberato, se no non ci riusciremo a spiegare perché una volta che un'impresa è stata fatta, improvvisamente centinaia di persone sono capaci da un giorno all'altro di realizzare. Certo. Questo ci aiuta. Posso aggiungere una cosa? Certo, però? Ecco, io credo che ci sia un'altra componente che probabilmente è quella che il dottor Confalonieri mette quando parla di questo paradigma, che mi sembra molto interessante. Sotto l'aspetto organizzazione bisogna ricordarsi che tante volte quando le persone non sono demotivate, appunto lo sono o perché non hanno abbastanza, come dire, senso di autoefficacia, quindi cognitivamente credono che siano impossibili, oppure non lo fanno perché sanno benissimo dentro di loro che sono possibili, ma non hanno abbastanza volontà, disciplina, capacità di organizzarsi e preferiscono non faticarsi. Abbiamo la sentito e la capacità. Abbiamo sentito, professor Trabucchi, all'inizio un breve estratto del Diavolo e la signorina Prim, che terminava con questa frase: le persone vogliono cambiare tutto e nello stesso tempo desiderano che ogni cosa continui a essere come prima. È un po' lo spunto che ci suggeriva lei, no? Sì, un po' è la paura del cambiamento, è chiaro, quando si affronta l'ignoto non si sa mai dove si va a parare, e poi diciamo anche che per cambiare costa fatica. Sì. Però questo... lei non cambi, rimanga sempre con noi. Io sono sempre contenta di quando lei interviene. Anch'io, intanto la ringrazio molto. Buona giornata al professor Trabucchi. Resisto dunque sono, Carbaccio Editore. Io ho, devo dire, qualche difficoltà a presentare in modo adeguato il prossimo ospite. Potrei dirvi che è un campione, potrei dirvi è un uomo di grande coraggio, uno sportivo appassionato, un ottimista, una persona che non si dà per vinto, ma forse la definizione che più gli appartiene è quella che gli è stata data da un suo caro amico, dicendo che rappresenta in modo efficace il Kaizen giapponese. Ci facciamo spiegare da lui che cosa è questo Kaizen giapponese, che vedremo che ci riguarda molto da vicino. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi Alex Zanardi. Ciao Alex. Buongiorno a tutti, grazie della ospitalità. Senti, tu rappresenti, secondo il tuo amico Paolo Barilla, in modo efficace il Kaizen giapponese, che è la ricerca del miglioramento continuo. Sì, che lì per lì me lo sono dovuto andare a vedere su Wikipedia, perché lì per lì avere una mentalità del Kaizen non mi sembrava un gran complimento. Però in verità credo che dei tanti complimenti immeritati, credetemi, non è falsa modestia, che io ricevo quotidianamente, questo invece mi sento in qualche modo mi appartenga. Per educazione, per carattere, per quello che mi ha passato mio padre, che era una persona di cultura abbastanza modesta, ma estremamente saggio. Papà faceva l'idraulico, mi ha sempre insegnato che se una cosa è già stata fatta da altri, dotandosi, come dire, dello stesso bagaglio di informazioni, lavorando allo stesso modo, eccetera, non c'è ragione per cui non si possa addirittura innovare. Fondamentalmente questo mi è servito nello sport, ma mi è servito anche in circostanze abbastanza complicate come quello del mio incidente, dove alla fine crearsi una lista di priorità, ragionare sul problema principale e rimanere focalizzati su quello prima di passare depennandolo, appunto, dopo averlo risolto, a ciò che seguiva poi in lista, no? Ecco, sono queste le cose che mi hanno portato passo dopo passo a tornare alla vita, a vivere molto bene, a provare delle soddisfazioni, perché comunque quando ottieni dei risultati, grandi o piccoli che siano, scatta in te ancora più motivazione, ancora più voglia di vedere cosa è rimasto in fondo al barile. Da poter è una ricerca, ancora. È proprio no? È una mentalità del Kaizen, come ti ha detto Paolo Barilla. Andiamo a sentire il quarto indizio e poi la viabilità. Un ascoltatore mi scrive: ma posso intervenire per parlare con Alex Zanardi? Certo, 800 24 00 24. Ha percorso 108.206 chilometri in 467 giorni. Ha visto 36 paesi. Ha bevuto 450 litri d'acqua e ha perso 15 kg. Essere e benessere. siamo in compagnia di Alex Zanardi, abbiamo il dottor Confalonieri, il dottor Andrea Colombo, cerchiamo di affrontare le sfide quotidiane. Dottor Confalonieri, io so che lei ha proprio a cuore, no, di fare una domanda ad Alex, e è un suo, come molti di noi, un suo grande fan. Sì, pur non conoscendolo sono un grande fan per questa grandissima capacità di coniugare il fatto di realizzare sfide apparentemente impossibili con renderle come qualcosa di semplice, di qualcosa alla portata fondamentalmente di tutto, cioè di qualcosa compatibile con quelli che sono i limiti che ciascuno di noi ha. E direi che l'ha evidenziato molto bene anche oggi dicendo: tanti dei complimenti che ho ricevuto sono immeritati. Ecco, ritengo il suo ruolo di testimonianza sia fondamentale proprio perché non sembra lontano, non sembra un esempio irraggiungibile, qualcosa che guardiamo e col quale ci giustifichiamo dicendo non saremo mai così, ma lo sentiamo molto più vicino proprio perché ha fatto qualcosa di grande, ma ci dice anche che qualcosa di grande lo possiamo fare tutti, perché un uomo come noi, con tutti i difetti e con tutti i limiti che abbiamo noi, è un po' per questo per cui abbiamo pensato a lui per una trasmissione come oggi, che era un vorrei ma posso, nonostante tutti i miei limiti, se sono capace di analizzarli e di affrontarli uno alla volta. Alex, ogni persona la mattina proprio si alza e deve stilare una propria lista di priorità, e tu no? Come è fatta la tua lista? Che cosa scrivi? Beh, è molto importante. Innanzitutto ringrazio anche il dottor Confalonieri per le belle parole che mi ha riservato. E io credo che sia molto importante, da un lato, aver fiducia nelle proprie capacità, essere consci che se una cosa è già stata fatta da altri, anche noi possiamo tutto sommato fare il nostro tentativo, e che porta sempre un risultato. E attenzione, perché poi vogliamo diventare tutti campioni del mondo di qualcosa, e questo non è possibile, però il fatto di averci provato al meglio delle nostre capacità è un qualche cosa che ci deve permettere di guardare allo specchio e vedere riflesso qualche cosa che ci piace, perché abbiamo fatto comunque la nostra parte. Detto questo, bisogna anche essere capaci di scegliersi gli obiettivi, perché troppe persone poi dopo vedono qualcun altro portare a casa un grosso risultato e sognano appunto dalla sera alla mattina di potersi inventare campione del mondo di quella stessa disciplina, che è, tra l'altro, è, ripeto, è un sogno sottratto, è un sogno rubato, non è il tuo. E se tu speri di ottenere soltanto quella cosa, probabilmente ti illudi, stai ragionando per ambizione, non arriverai mai lontano. Se invece ti sai scegliere il tuo obiettivo, sai in qualche modo determinare ciò che è nelle tue corde, sogni qualche cosa, ti metti in viaggio, beh, è molto probabile che tu possa addirittura arrivare anche a centrare il grande risultato, ma ne sarà comunque valsa la pena, perché avrai fatto qualche cosa che ti piaceva molto, che ti ha appassionato e che ti ha divertito tantissimo, insomma, un po' il percorso, la cosa che conta davvero, secondo me, al di là di quello che può essere un ipotetico punto di arrivo. Alex, voglio leggerti Mario da Brescia. Il dottor Colombo, le la passo subito la parola. Se c'è Alex in radio, il lavoro può attendere. Puntata terapeutica. Hai visto? Allora, non so se sono tanto contenti i capo ufficio, ma puntata terapeutica, dottor Colombo. Io volevo proprio fare una domanda ad Alex, che ovviamente stimo per quello che ha fatto e fa. Cioè, noi molto spesso nelle sfide apparentemente siamo da soli, in realtà gli altri hanno sempre un ruolo molto importante. Volevo capire, chiedere così, sono molto curioso di sapere gli altri, le persone accanto, lo staff, le persone vicine, che ruolo hanno? Perché molto spesso noi pensiamo di essere soli, invece abbiamo tante persone attorno e magari anche qualcuno che guarda da giù, da sopra anzi. Da sopra, ma da giù. Sono assolutamente d'accordo, è certamente così, lo è stato per me come lo è stato per altri, però bisogna anche saper chiedere alle persone, attenzione, perché io credo che ci sono momenti, ad esempio all'inizio, subito dopo il mio incidente, tutti pensavano che avere di fianco mio figlio fosse la cosa più importante del mondo. In realtà io avevo bisogno di concentrarmi tecnicamente sui miei problemi, non avevo bisogno di uno sprone, come dire, da un punto di vista emotivo per superare qualche cosa che in realtà mi ero già lasciato alle spalle. Viva Dio, per me è stata così, perché io sono così di carattere e alla fine forse anche perché sono passato attraverso un tale inferno, per cui avevo veramente la percezione, certo, che ormai il peggio me l'ero già lasciato alle spalle. Ce ne sono altre persone, magari hanno bisogno di stimoli diversi. Ecco, questo è fondamentalmente ciò che dobbiamo da subito determinare. Però poi attenzione, siamo noi col nostro agire che riusciamo anche ad entusiasmare, ad appassionare coloro che saranno lungo la strada la nostra squadra. Ecco, dai per ricevere, perché se no io ho avuto nei tecnici ortopedici e nei fisioterapisti del centro INAIL presso il quale ho fatto la mia riabilitazione, il mio nuovo team manager, il mio direttore tecnico, sì, eccetera, ed è stata un'avventura fantastica in cui tra l'altro avevamo anche la fortuna non solo di parlare la stessa lingua ma addirittura lo stesso dialetto, ci siamo fatti anche un sacco di risate. È stato veramente una tappa molto bella della mia vita, dove sono convinto che queste persone alle volte rimanevano fino alle 9 della sera, non certo per lo stipendio ma perché in me hanno visto un ottimo collaudatore per affinare la loro tecnica, cercare di innovare, di fare qualche cos'altro. Sono certo che se io fossi stato lì a piangermi addosso, a dire oddio come farò a venire fuori da tutto questo, loro mi avrebbero trattato con grandissimo rispetto, grandissima professionalità, perché lo fanno abitualmente ogni giorno, ma però poi alle 5 tolgono il camice e vanno a casa. Allora, Alex, non ti dico i messaggi che stanno arrivando, poi ti chiamo e te li leggo, perché sennò sarebbe veramente troppo lunga, ma noi abbiamo in linea Mauro da Varese. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicoletta e a tutti quanti. Gli ultimi secondi di trasmissione, perché Alex forse non lo sa, noi avevamo mandato degli indizi per scoprire un personaggio che ha veramente affrontato e vinto una sfida che sembra impossibile. Mauro? Eddie Cattaneo. Ed è in linea con noi, Eddie, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo fatto sentire i tuoi indizi, il nostro ascoltatore riceverà a casa in collaborazione con la libreria Rizzoli.it Mondo via Terra, il libro in cui Eddie racconta la sua avventura, ma dato che sono arrivati anche le segnalazioni su, naturalmente, su Facebook e su il 349-238-6666, abbiamo pensato di coinvolgere Eddie, che gentilmente ci darà altri libri per farli avere a chi ha indovinato per primo su Facebook e a chi ha indovinato per primo, che è Diego, via SMS, mentre Elisa su Facebook. Eddie, dacci una ricetta rapida per vincere le sfide impossibili. Viverle in maniera totale. Io avevo una febbre e l'ho sfebbrata. Sono malattie, secondo me non c'è una ricetta buona per tutti. Allora, dato che tu vai in giro, potresti venire una volta qua a piedi fino a Essere Benessere, che così ci facciamo una bella puntatina io e te? Senza problemi. Va bene, con le stesse scarpe. Grazie ad Alex Zanardi per essere stato con noi, a Eddie Cattaneo, al dottor Confalonieri, al dottor Colombo, a voi che ci avete chiamato, sostenuto, perché voi siete la mia squadra. E io vi aspetto come sempre a domani. Buona giornata da Nicoletta. Essere Benessere.